Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. È una puntata speciale del cacciatore di libri perché, come facciamo sempre, all'inizio di ogni nuovo anno vediamo un po' la panoramica di quelli che saranno i libri, molto probabilmente, protagonisti dei prossimi 12 mesi. Naturalmente parliamo sia dei libri di scrittori famosi, quindi di ritorni più o meno attesi, ma anche di scrittori esordienti da tenere così d'occhio. Questo viaggio così virtuale fra i libri del 2014 lo facciamo naturalmente con gli stessi editori, insomma con i direttori editoriali che ci dicono chi tornerà in quest'anno e quali saranno appunto gli esordienti su cui loro puntano. Per quanto riguarda i grandi nomi del 2014, già vi anticipo che ci saranno alcuni ritorni eccellenti, come per esempio Haruki Murakami per le Einaudi, ma anche la Patricia Cornwell, molto amata da una fascia determinata di lettori. Oppure ancora ci sarà il libro di Elise Munro, il premio Nobel per la letteratura del 2013, ma ci saranno anche, come di consueto, gli appuntamenti fissi, per esempio con Andrea Camilleri, con il suo Montalbano, ma anche con un romanzo storico. Poi ci sarà il nuovo romanzo di Clara Sanchez, l'autrice di Il profumo delle foglie di limone, questo era stato il libro con il quale aveva avuto più successo, soprattutto nel nostro paese, e tornerà con un libro che ha vinto in Spagna il premio Planeta, un premio decisamente importante per i narratori di lingua spagnola. Ma andiamo per ordine, partiamo con Mondadori. Allora sentiamo quali sono i grandi nomi di Mondadori che tornano nel 2014 dalle parole del direttore editoriale della narrativa Antonio Franchini. Tra i grandi ritorni del 14 io nominerei sicuramente la Cornwell, che è un appuntamento fisso annuale. Vi direi di George Martin, autore strafamoso, in crescita e con una pletora di lettori e affezionatissimi, che con Il Cavaliere dei Sette Regni ci dà una specie di prequel del Trono di Spade. E poi nominerei senz'altro Follett, che conclude in maniera grandiosa la sua enorme trilogia novecentesca. Questo per quello che riguarda gli stranieri. Per i ritorni degli italiani ce ne sono veramente tanti, io vi direi così: nella prima parte dell'anno ritorna Francesco Guccini con una nuova puntata del Dizionario degli Oggetti Perduti, un nuovo Moresco, Antonio Moresco, una fiaba d'amore intensissima e sorprendente, sempre nella collana delle Libellule, e poi il nuovo romanzo di Giuseppina Torregrossa, che questa volta è ambientato in una torrefazione, tra i profumi di una torrefazione. E allora avete sentito, fra i grandi nomi di Mondadori tornano in questo 2014 Patricia Cornwell, ma anche Ken Follett con la terza parte appunto di questa trilogia. Passiamo invece a Rizzoli. Di Rizzoli ce ne parla il responsabile della narrativa italiana, Michele Rossi. Gli abbiamo chiesto quali sono i nomi noti. Sicuramente un premio Strega, Walter City, è un autore noto che torna con un romanzo molto importante dal titolo Exit Strategy, che racconta il nostro tempo presente in maniera efficace e caustica, come solo Walter City sa fare. E torna anche Gianrico Carofiglio, che insieme a Francesco hanno scritto un racconto d'infanzia intensissimo, La casa nel bosco, una sorta di ritorno in una casa che loro non abitano più da anni, e raccontano quell'immaginario insieme al cibo, alle ricette, ai giochi e a tutte quelle tradizioni che in qualche misura si sono perse. Questo è un libro toccante, divertente, leggero, che ci ha dato una soddisfazione incredibile leggendolo. E poi un autore con cui noi pubblichiamo non il noir, ma una sorta di racconto parallelo, che è Giancarlo De Cataldo, racconto parallelo perché nel terzo Questo è il terzo libro che pubblichiamo di Giancarlo e in qualche misura viene fuori la figura di Giancarlo De Cataldo. Questo è un romanzo, ma che racconta la vita di questo combattente, che non è altri che Sandro Pertini nella collana Altri Eroi, ed è un combattente, un Pertini non agiografico, non con la pipa e le carte di briscola con Berzot, ma un Pertini che in qualche misura insegna i valori della democrazia, insegna quanto può essere anche complicato essere giusti. Rizzoli punta di nuovo sul Walter City, che lo ricordiamo l'anno scorso aveva vinto lo Strega con Resistere non serve a niente. E poi avete sentito De Cataldo sulla storia di Sandro Pertini, ma tra l'altro vi segnalo che da Rizzoli arriveranno nel 2014 anche un nuovo romanzo di Andrea Vitali, che pubblicherà comunque sempre ancora con Garzanti, insomma è uno scrittore piuttosto prolifico. Per Rizzoli pubblicherà Premiata ditta Sorelle Ficcadenti, sempre ambientato sul suo amatissimo lago. E poi ancora un altro scrittore passato a Rizzoli, Paolo Di Paolo, con una biografia su Montanelli. Veniamo ora ad Einaudi. Sentiamo quali saranno i grandi nomi del 2014 dal direttore editoriale Ernesto Franco. Alice Munro, con l'ultimo libro di non ancora tradotto in italiano, che sarà intitolato Uscirne vivi, e che uscirà nel primo semestre. Poi il nuovo libro di Murakami Haruki, che è un titolo molto lungo e molto suo, direi, e cioè L'incolore Tasaki Tsukuru e il suo anno di pellegrinaggio, che è un libro che in cui Murakami Haruki ritorna un po' all'atmosfera di Norwegian Wood. Il nuovo libro di Giorgio Falco, Le gemelle H, e quello dei Wu Ming, di nuovo tutti insieme, con l'armata dei sonnamboli, sulla Francia della rivoluzione, della rivoluzione francese. C'è un'antologia che mi piaceva segnalare, Le quattro regole del gioco, perché vede Giancarlo De Cataldo, Maurizio De Giovanni, Diego De Silva e Carlo Lucarelli, con quattro racconti cui protagonisti sono i loro personaggi famosi, Grazianegro, Malinconico e così via. Murakami, Alice Munro per Einaudi. Passiamo invece ora a un'altra grande casa editrice italiana, la Longanesi. Quali sono i grandi nomi che ritorneranno in questo 2014? Ce lo racconta il direttore editoriale Giuseppe Strazzeri. Partirei prima di tutto con un grandissimo ritorno italiano per noi, che è Alessia Gazzoli. Alessia Gazzola, già autrice per noi esordiente e con un fortunatissimo esordio che era L'allieva, che ha inaugurato il suo personaggio di Alice Allevi, questa anatomopatologa tutta italiana, una che scarpetta all'italiana, e tornerà con Le ossa della principessa proprio a gennaio. Alessia ormai ha un seguito nutritissimo, insomma la sua formula, che è un mix tra la Cornwell e Ellen Fielding, sta trovando sempre più seguito. Sempre parlando di nomi ricorrenti, avremo un grandissimo Wilbur Smith nel corso del 2014, sarà un ritorno che farà molto piacere a tutti coloro che già amano Wilbur Smith, ma sono certo che non mancherà di sorprendere anche nuovi lettori, quindi siamo molto molto felici di sapere che tornerà anche lui. Poi un altro sorprendente libretto che avremo sarà quello del nostro bestseller di catalogo, Jostein Gaarder, l'autore del mondo di Sofia per intendersi, che ha scritto una lievissima e sapientissima favola per adulti che si intitolerà Il mondo di Anna, dove lettori giovanissimi e anche i genitori di quei lettori giovanissimi troveranno una favola, insomma, con una morale per salvare il mondo, irresistibile secondo me. E allora i fan di Wilbur Smith possono stare tranquilli, non c'è ancora una data precisa di uscita di questo nuovo libro, insomma, ma è certo che nel 2014 Longanesi ci proporrà un nuovo romanzo di avventura di Wilbur Smith. Da Feltrinelli invece sentiamo quali sono le proposte, quali sono i grandi nomi che tornano quest'anno dal direttore editoriale Gianluca Foglia. Un grande scrittore italiano che torna con un nuovo libro a fine gennaio è Ermanno Rea. che è un grandissimo romanzo, si intitola Il libro di Adele, la storia di una donna attraversa vari decenni delle vicende di questa Adele, attraverso amori, attraverso una Napoli prima devastata dal colera, poi diciamo che affronta i suoi guai e le sue meraviglie, ma la particolarità di questo libro e di questa protagonista Adele è che è una lettrice, è una grandissima lettrice di romanzi ed è una donna che informa in qualche modo la sua vita su modelli letterari che ha potuto conoscere e scoprire attraverso la lettura. E un altro ritorno importante invece più avanti sarà ad aprile con un nuovo libro di Stefano Benni, un nuovo libro di Stefano Benni a cui sta finendo di lavorare ma che abbiamo già letto, si intitolerà Pantera, e di nuovo una storia di una donna molto particolare, di una campionessa di biliardo che sfida, arriva a sfidare i più grandi campioni, i maschi, e a giocare con loro alla pari, ed è una vicenda diciamo degna del miglior Benni come potenza del personaggio e come ambientazione. Questa sala di biliardo c'è tutto il mondo di Benni e in qualche modo c'è tutto il mondo, insomma. E quindi questi sono due ritorni belli, graditi, con dei libri importanti che sicuramente gli amanti di Rea, gli amanti di Benni amiranno moltissimo. E poi una cosa un po' particolare su cui magari ci soffermiamo un secondo, che sarà l'esordio narrativo di Giovanni Floris, il popolare giornalista televisivo che per la prima volta si racconta e racconta la generazione dei ragazzi cresciuti negli anni Ottanta attraverso una performance narrativa molto divertente e molto particolare. Devo dire che mi incuriosisce molto questo personaggio femminile del romanzo di Stefano Benni. Sono decisamente curiosa di leggere questo suo nuovo scritto. Veniamo invece ora a Garzanti. Scrittori famosi, ce ne parla la direttrice della narrativa Elisabetta Migliavada. Nominati di Garzanti del 2014 partono alla grande con Clara Sanchez, che a febbraio uscirà col romanzo che ha vinto il Premio Planeta adesso, che si chiamerà Le cose che sai di me, ed è per noi insomma un appuntamento molto importante che in tanti aspettano, perché questo è il romanzo definito da tutta la stampa come il suo migliore. E poi segnalo anche che insomma Clara Sanchez con questo romanzo che ha vinto il Planeta diventa l'unica autrice spagnola che abbia vinto i tre premi più importanti spagnoli, cioè il Planeta, prima l'Alfaguara e prima il Nadal. Quindi per noi questa è diciamo una delle uscite più importanti dell'anno. Poi avremo il nuovo romanzo di Andrea Vitali a maggio, cui ne seguirà un altro poi nella vicino a Natale, quindi torna Andrea Vitali sempre più in forma. E infine segnalo che nella cedola poi strenne avremo un nuovo romanzo di Sara Rattaro, l'autrice di Non volare via, che ci ha dato tante soddisfazioni quest'anno e che tornerà con un nuovo bel romanzo. E allora Clara Sanchez a febbraio con Le cose che sai di me, poi ci sarà un Andrea Vitali a maggio. Per quanto riguarda ancora i grandi nomi, vi segnalo gli appuntamenti fissi, insomma quelli imperdibili ogni anno con Andrea Camilleri, insomma che nonostante abbia superato da un po' gli 80 anni continua a sfornare romanzi, anzi in un'intervista proprio al Cacciatore di Libri ci aveva detto che per esempio lui di Montalbano ne ha già scritti diversi, oltre al famoso solito ultimo libro che viene custodito dalla Sellerio, ma che comunque lui ne scrive diversi e poi è la casa editrice a decidere quale pubblicare di volta in volta. Allora Andrea Camilleri, gli appuntamenti con lui per il 2014. A marzo uscirà un romanzo storico per Sellerio e poi naturalmente il nuovo Montalbano a maggio. Ma il mondo dell'editoria per fortuna non è fatta solo di nomi noti, è fatta anche di esordienti sui quali le case editrici cercano di puntare di anno in anno. Qualche anno fa c'era stata un po' una corsa, una caccia all'esordiente, tutti cercavano di trovare l'esordiente come una gallina dalle uova d'oro, un po' come era successo a Mondadori con Paolo Giordano e La solitudine dei numeri primi. Ora diciamo questa corsa si è un po' placata, ma insomma l'attenzione per le grandi case editrici nei confronti dei nuovi nomi è sempre molto forte. E allora vediamo quali saranno gli esordienti che, secondo Antonio Franchini, direttore editoriale della narrativva Mondadori, quali sono i suoi esordienti da tenere d'occhio. Per gli esordienti stranieri, anche se appunto per quello che riguarda gli stranieri il concetto di esordiente è sempre un po' diverso rispetto a quello che abbiamo per gli italiani, farei il nome di una giovane scrittrice 23enne che si chiama Issy Healy e il titolo è Elizabeth è scomparsa, è un libro che noi pubblicheremo a settembre, è una storia di grandissima tensione, una specie di giallo in cui questa giovane scrittrice si immedesima in una donna settantenne che soffre di Alzheimer e, soffrendo di Alzheimer, deve indagare sulla scomparsa di una sua carissima amica, ma indagando su questa scomparsa scoprirà un mistero ben più importante che riguarda invece la sua giovinezza. Sugli italiani do addirittura tre nomi, che quindi sarà un 2014 all'insegna degli esordi italiani. Vi do i nomi di Antonio Marangolo, che è uno scrittore non più giovane, siciliano, famoso già come musicista, perché è stato ed è un sassofonista importante che ha lavorato appunto con Francesco Guccini, che ce lo ha fatto conoscere, che ci scrive un romanzo intitolato Complice lo specchio, è un romanzo di grandissima sensualità. Abbiamo poi un noir napoletano di un giovane, che si chiama Stefano Crupi, un bellissimo titolo, Un guaio nero, un noir napoletano con delle caratteristiche tipiche del genere, ma anche con diverse sorprendenti novità. Abbiamo poi un altro esordio italiano sorprendente. L'autore è un giurista, si chiama Alfonso Celotto, e il titolo è un titolo insolito, singolare: Il dottor Ciro Amendola, direttore della Gazzetta Ufficiale. Rizzoli adotterà invece una strategia un po' diversa per quanto riguarda gli esordienti, ce la spiega Michele Rossi, che è responsabile della narrativa italiana. Esordire in Italia è stato, diciamo, una sorta di moda che ha... diciamo che gli editori hanno praticato fin troppo. Noi cercheremo di dosare molto bene il primo libro. I nomi che mi viene da fare in questo momento sono, a inizio anno sarà Loffredi, La felicità sta in un altro posto, che diciamo è una sorta di Petalo Cremisi il bianco in Italia, a Napoli e a inizio Novecento. E una sorta di Signore delle Mosche in Italia di Giulia Gubellini, che è un romanzo abbastanza speciale, esplosivo, che stanno già leggendo diversi produttori, e quindi insomma partiamo con dei produttori perché ce l'hanno chiesto loro una volta che abbiamo raccontato la trama, non perché l'abbiamo ancora proposto, per cui è un titolo importante che uscirà insomma nella seconda metà dell'anno e insomma vedremo che ci potremo divertire. Nomi poco noti, se non proprio esordienti, da parte di Einaudi, nelle parole del direttore editoriale Ernesto Franco. Io vi segnalerei da una parte il libro di Valentina Diana intitolato Smamma, che è il rapporto da una battaglia fra una madre alle prese con un impossibile figlio adolescente. È un libro molto divertente, un rapporto con la battaglia, lo dico naturalmente con il sorriso sulle labbra, ma in cui ci si può proiettare con grande immedesimazione, ecco. Sì, il libro, c'è il libro di Morgan, dal titolo complesso e molto morganiano, Io, l'amore, la musica, gli stronzi ed io, ed è un libro ovviamente su l'universo Morgan. Ci saranno due libri stranieri importanti. Uno è il libro di Philip Meyer, Il figlio, che è un libro, un grande romanzo americano, nel senso che è un romanzo della frontiera, parte dall'West fino ad arrivare ai nostri giorni. Diciamo che è un po' ciò che viene dopo, detesto sempre dire il nuovo Cormac McCarthy, ma è ciò che viene dopo quella tradizione lì, quel riferimento lì per la letteratura americana. È stato un best seller in tutte le classifiche americane per lungo tempo ed è veramente una lettura travolgente. Mentre invece per la Francia, Il caso dell'anno in Francia, è di Romain Puertolas, L'incredibile viaggio del fachiro, anche questo è un titolo complesso ma divertente, L'incredibile viaggio del fachiro che restò chiuso in un armadio IKEA, ed è una storia comica, divertente, e che fa però, come dire, sorridere anche un po' amaramente, raccontata da chi ha un'esperienza l'autore di guardia di frontiera, e quindi è una sorta di racconto col sorriso e con la consapevolezza sui migranti del mondo. Per ultimo, ma non in ultimo, insomma, il libro 335, che è il romanzo di Ivano Fossati, che è veramente una sorpresa. Non è niente di autobiografico, non è niente di personale, cioè, ma è veramente una storia, la costruzione di un libro, una storia articolata e con personaggi molto veri e molto poco dello star system, ma invece, come dire, ancorati a quella medietà che danno a volte il talento e la vita vera e che li rendono terribilmente umani e vicini al lettore. E sentiamo ora quali sono gli esordienti della Longanesi da tenere d'occhio. Ce ne parla il direttore editoriale della Longanesi, Giuseppe Strazzari. Il primo è senz'altro, potrei definirlo un thriller, ma in realtà è un po' riduttivo, perché in realtà è proprio il genere del thriller che sul mercato anglosassone si sta mutando geneticamente in qualche cosa di più ambizioso, se vogliamo, dal punto di vista della scrittura. Sto parlando del thriller dell'esordiente Katie Zahn, che uscirà per noi con il titolo di Dopo, proprio nella prima parte del mese di gennaio, ed è un bellissimo thriller al centro del quale, per una volta, non è, diciamo, il malvagio o colui che deve scoprirlo e metterlo al sicuro, ma al cui centro questa volta ci sono le vittime. E le vittime sono tre donne che hanno condiviso un destino terribile di prigionia e che devono ritrovarsi dopo molti anni da quella terribile esperienza, un caso non dissimile, insomma, al caso di Oklahoma City accaduto di recente, e devono lavorare insieme per riuscire a tenere in carcere il loro aguzzino. Problema è che queste tre vittime negli anni della prigionia non sono state amiche tra di loro, ma anzi quegli anni di prigionia le hanno costrette a comportamenti terribili, quindi dovranno trovare una solidarietà e un piano comune. Un altro esordiente senz'altro interessante, molto più lieve e spiritoso, è per l'estate John Rance, con un anche in questo caso stiamo parlando di un debutto. Il titolo del romanzo è Non son degno di tre, e Non son degno di tre racconta una storia molto particolare allo stesso tempo comunissima, cioè che cosa succede a un trentenne del terzo millennio quando arriva in casa la propria adorata moglie, con la quale si sta benissimo, con la quale si conduce una vita splendida, con la meravigliosa notizia che finalmente si aspetta un bambino. Ovviamente la risposta non può che essere gioia infinita e dall'altra anche un impellente senso di catastrofe. E ora per la Feltrinelli, più che un esordiente, diciamo uno scrittore magari poco conosciuto ma che aveva già pubblicato in passato, si chiama Giuseppe Catozzella, con un libro che si intitola Non dirmi che hai paura, che è stato pubblicato proprio la scorsa settimana. Un libro che ho avuto la fortuna di leggere in anteprima alcune settimane fa. Chi mi ha seguito su Twitter, insomma, ha visto anche i miei commenti su questo libro, che ho trovato veramente toccante, veramente emozionante. È la storia di questa atleta somala che ha partecipato anche alle Olimpiadi di Pechino e che ha il sogno appunto di fare una carriera nello sport. Sentiamo su questo il direttore editoriale di Feltrinelli, Gianluca Foglia. È un libro straordinario ed è una parola che uso, diciamo, a ragion veduta e senza falsa enfasi, perché è un libro che unisce, come solo i grandi libri secondo me sanno fare, l'emozione poetica all'indignazione civile. Catozzella riesce a fare una cosa meravigliosa secondo me, riesce a raccontare la storia di questa ragazza con emozione, con partecipazione, a restituirci la sua voce e a farne romanzo, e a farne un romanzo pieno di speranza, di coraggio, di passione. Prima di chiudere, due notizie che riguardano due premi letterari importanti in Italia. Il premio Nonino, arrivato al 39esimo anno, quest'anno la giuria presieduta da Naipaul, che insomma è un famosissimo premio Nobel per la letteratura del 2001. Allora, chi sono stati assegnati questi premi Nonino? Aswad Amiri, una scrittrice palestinese che si batte sempre per la giustizia, per la pace, allo scrittore portoghese Antonio Lobo Antunes il premio Nonino 2014 a Giuseppe Dell'Acqua e il premio Nonino a un maestro del nostro tempo, al francese Michel Serret. I premi saranno consegnati sabato 25 gennaio. Un'altra breve notizia che riguarda un premio letterario, il premio Campiello, è stato deciso questa settimana chi sarà il presidente della giuria dei letterati, che, lo ricordiamo, cambia ogni anno. Presidente di questo premio Campiello 2014 sarà l'attrice Monica Guerritore. Il 30 maggio a Padova ci sarà la selezione della cinquina finalista, il 13 settembre 2014 a Venezia la proclamazione del vincitore. Anche per questa puntata speciale del Cacciatore di Libri, dedicata alle uscite, ai libri che vedremo nel 2014, è tutto. Grazie in regia a Roberto Scaltritti. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.